Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Influx. Esiste un caso di immigrazione. Comunque ci giriamo, sono italiani. La contemporanea è una migrazione della comunità europea. Quest'estate i negroni si trovavano dappertutto. C'è una percentuale, un aumento di circa il 60%. L'età va dai 18 ai 60 anni. Molti sembra proprio che scappino dall'Italia. È cambiata anche la tipologia. È un mondo di gente che ha studiato. Cioè, alcuni sono incoscienti, altri sono della disperazione. L'Italia è fantastica quando non ci vivi. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Promette molto bene questo nuovo documentario Influx, realizzato dal siciliano Luca Vullo, emigrato in Gran Bretagna 2 anni fa, indaga la nuova emigrazione italiana oltremanica, fatta di decine di migliaia di giovani e meno giovani in arrivo ogni mese a Londra. Da vedere il trailer lo trovate su YouTube. Per noi invece una puntata, quella odierna, che torna sull'annoso tema della ricerca. E oggi fate bene attenzione, perché riparte l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci accompagnerà per ben 10 puntate fino al 16 maggio, prima di una puntata conclusiva il 23 maggio a Strasburgo. Quest'anno in palio ci sono 4 viaggi studio all'Europarlamento e 4 biglietti d'ingresso al padiglione europeo di Expo 2015. Per questo abbiamo ampliato la fascia dei partecipanti agli Under 40. Tra poco tutti i dettagli, stay tuned! La frase della settimana è copyright del governatore di Banca Italia Ignazio Visco. Le imprese italiane non investono sull'innovazione tecnologica, favorendo la fuga dei cervelli. In presenza di significative difficoltà nel trovare competenze adeguate nel mercato del lavoro, le aziende sembrano reagire non innalzando i salari, bensì riducendo la propensione a investire in nuove tecnologie, contenendo il fabbisogno di manodopera qualificata. L'innescarsi di questo circolo vizioso deprime l'incentivo all'investimento in capitale umano, spingendo i lavoratori altamente qualificati ad emigrare. Studi della Banca d'Italia attribuiscono quasi la metà del divario nella quota di laureati tra Italia e Germania a questo tipo di interazioni. Così Visco, semplicemente illuminante. E come anticipato, torniamo ora a parlare di giovani ricercatori, o per la precisione ricercatrici, e del futuro della ricerca in Italia. La risposta è stata praticamente che il concorso era sui temi di ricerca che stava facendo un'altra persona, quindi il concorso era praticamente per quest'altra persona. Serena Evaldi, 32 anni, è una ricercatrice presso l'INRIA francese a Nancy. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Best practices per iniziare. Emblematico l'appello lanciato dal premier irlandese Enda Kenny alle migliaia di giovani emigrati durante la crisi. Vogliamo che tornino, abbiamo bisogno di loro. Il governo di Dublino ha lanciato al proposito l'iniziativa Global Irish, che offrirà ai futuri controesodati siti web dedicati, consigli e supporto per tornare in patria, fino eventualmente a incentivi fiscali. Nell'ultimo quinquennio 165.000 giovani irlandesi sono emigrati per mancanza di lavoro. E a sorpresa, la Germania sta vivendo un boom di emigrazione. Tra il 2009 e il 2013 le partenze sono state 710.000 e i rientri 580.000. Il 70% di questi emigranti sono altamente qualificati. Come riporta l'agenzia tedesca per l'integrazione e le migrazioni, è soprattutto il desiderio di carriera e di un migliore standard di vita a spingere i tedeschi oltre confine. Meta preferita la Svizzera, seguono Stati Uniti e Austria. Torniamo a parlare oggi dell'algoritmo di Face for Jobs, portale per la ricerca di lavoro nel mondo, inaugurato da pochi mesi. Recentemente ha rilevato oltre 190 milioni di posizioni aperte su scala globale. A farla da padrone la Cina, mentre l'Italia appare in forte discesa in classifica. Alessio Romeo, CEO e fondatore di Face for Jobs. I paesi del mondo che in maniera significativa sono venuti fuori con opportunità di lavoro all'inizio del 2015 sono quelli fondamentalmente del BRIC, quindi paesi in via di sviluppo come Brasile, Sudafrica, Cina, India, e quindi paesi più caldi da questo punto di vista, quindi a maggior PIL. Nulla toglie a un'Europa che comunque in un inizio d'anno presenta anche delle significativi incrementi localizzati in particolari regioni. Europa che tiene un 20 milioni circa di posizioni aperte, però preoccupa l'Italia, perché l'Italia cala anche a abbastanza come posizioni di lavoro. Di fatto l'Italia è vittima di una stagionalità, quindi da 1.200.000 che eravamo a fine anno ora siamo per ripartire. In realtà la lettura è di fine gennaio, quindi c'è anche l'effetto post natalizio in cui le aziende devono strutturare i budget per poi cominciare a inoltrare le opportunità, per cui prevedo che nella prossima lettura la cosa sarà incrementale. Un consiglio per chi sta cercando lavoro all'estero e magari vuole concentrarsi su zone tra virgolette accessibili, non troppo lontane? Gli ambiti in cui lavorare, che sono quelli in cui questa lettura concentra le maggiori opportunità, e sono quelle dell'ospitality, del turismo, dell'IT, del web, quindi tutti i vari manager del web, i web content, coloro che sanno amministrare le dati, e come pure tutti i vari con indirizzi di ingegneria. E per paese? Per paese direi anche l'Italia, nel senso sì, c'è un piccolo calo, ma sono già convinto di una lettura che sarà incrementale. Il Nord Europa fa sempre da leone. In tutti i paesi europei si è registrato un aumento della quota di popolazione in possesso di un titolo di istruzione di terzo livello, ma la crescita osservata in Italia è tra le più lente d'Europa. Col 14% di laureati tra la popolazione in età lavorativa, la penisola si colloca al terzultimo posto, così il rettore dell'Università La Sapienza, Eugenio Gaudio. E avere in tasca una laurea paga sul mercato del lavoro, anche se precisiamolo, in Italia meno che in altri paesi. Se la media OCSE di disoccupazione pare al 5,3% per i laureati, nella penisola è tripla, 16%. A farci compagnia Grecia, Portogallo e Spagna. Nel 2013 Italia, Grecia, Spagna e Turchia sono stati anche gli unici paesi in cui oltre il 30% dei 20-24 anni erano inattivi. La nuova emigrazione italiana in Europa, questo è il titolo della conferenza che il Circolo PD di Bruxelles promuove sabato nella capitale belga. Prevista sia una discussione sulla nuova emigrazione italiana, sia un dibattito sulle politiche da attuare per affrontarla. Proprio a Bruxelles è stato costituito il Circolo Nuova Emigrazione, nato per studiare i problemi della nuova emigrazione professionale. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta fino in Francia. Ancora una volta vi raccontiamo la storia di una ricercatrice che oltre Alpe ha ricevuto maggiori opportunità. Cerchiamo di capirne allora di più. Nome: Serena. Cognome: Ivaldi. Età: 32 anni. Città di origine: Genova. Studi: ingegneria informatica con indirizzo robotica automazione, poi dottorato in tecnologie umanoidi. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2011. Per andare dove? Parigi. Perché? Un postdoc all'estero. Quale lavoro svolge attualmente? Ricercatrice in robotica all'Ingria. Dove? Nancy. Tornerai? Ora come ora non credo, ma forse un giorno. J'ai pas choisi de naître ici, entre vignorons et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Mi spiace non poter portare tutte le mie conoscenze in Italia, sì, mi spiace proprio, non credo riuscirò a tornare nella penisola. Obiettivamente, ora come ora, la vedo dura e neanche voglio, perché la mia posizione attuale è un sogno, scrivi Serena con molta schiettezza e amarezza a Giovani Talenti. Con altrettanta schiettezza ti chiedo, i sogni per i nostri giovani ricercatori si realizzano solo all'estero? Fortunatamente no, almeno nel mondo della ricerca che io guardo, vedo che ci sono molte persone che riescono comunque a essere successful anche restando in Italia, oppure andando fuori e poi tornando. Però diciamo che questo è più un'eccezione piuttosto che la norma, perché ci sono tantissimi italiani che sono fuori. E tu sei una di questi, dobbiamo fare però, come dicevi tu, diventare la norma il poter avere successo in Italia. La tua passione per la ricerca sboccia fin da bambina, è una passione che ti porta presto sulla strada della robotica. Questa mia passione ha guidato le scelte di studio e di lavoro degli ultimi anni, confidi. Come nasce questo tuo amore per i robot? Mi sono sempre piaciuti i robot, i computer, le macchine, tutte queste cose, però diciamo è tutto iniziato quando al liceo ho iniziato a leggere i libri di Asimov, che uno dei principali autori di science fiction, e da lì ho detto boh, questa è la mia strada. La tua strada è insomma segnata, prima la laurea in ingegneria informatica a Genova, che concludi col massimo dei voti. E allora ti chiedo, come giudichi a distanza di anni la formazione universitaria che hai ricevuto in Italia? La nostra formazione non è male, però è molto teorica. Per chi prosegue in ricerca può essere anche utile, perché ci sono molti corsi diciamo anche avanzati rispetto a quello che si fa, vedo, in Francia. Però per chi poi prosegue nel mondo del lavoro direttamente, secondo me non è molto adeguata, perché c'è molta poca pratica. Dopo l'università e il dottorato in tecnologie umanoidi all'Istituto Italiano di Tecnologia, allora è stata una scelta obbligata sulla base delle tue aspirazioni, quella del dottorato, ma soprattutto quanto è stato difficile e competitivo accedervi? Non è stata una scelta obbligata, è stata una combinazione di cose. È stato stata una grossa opportunità. E poi per quanto riguarda l'accesso, c'era un concorso internazionale perché era aperto e bisognava mandare un curriculum, un progetto di ricerca, poi c'era una prima fase di selezione, poi c'era un orale, poi la selezione finale. Era abbastanza competitivo, comunque tutte le persone che sono state prese erano tutte bravissime. Alla fine del dottorato ho scelto di partire per un postdoc all'estero, tentennavo un po', ricordi ancora, ma i tuoi tutor ti consigliano di farlo, anche perché definivano imprescindibile un'esperienza fuori dalla penisola. Il tuo obiettivo all'inizio era un altro, partire ma per tornare, giusto? Sì, giusto. A convincermi sono stati i miei supervisor, dicevano ma non sei mai stata fuori e sarebbe necessario che almeno facessi un'esperienza all'estero. Avevano ragione, perché poi è stato molto istruttivo e formativo. Però diciamo ero partita con l'idea di fare 2 anni e poi tornare, invece poi alla fine non sono tornata. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Tre anni di postdoc a Parigi, poi 6 mesi in Germania, fino al ritorno in Francia. Ma andiamo con ordine. Che terreno di ricerca hai trovato in Francia non appena arrivata? In cosa ti sei specializzata? Sono arrivata, sono andata a studiare all'università per Marie Curie, in un istituto di robotica, ed è uno dei posti diciamo più prestigiosi a livello nazionale. L'ambiente era molto diverso dall'università che avevo in Italia. Tanto c'erano molti più stranieri, era molto più dinamico, c'era un po' più di voglia di fare, di emergere, di costruire cose, eccetera. Poi per la robotica in questo momento in Francia è un momento diciamo benedetto quasi, perché anche a livello diciamo ministeriale ci sono, per esempio l'ex ministro Montebourg aveva annunciato 2 anni fa una grossa azione di sostegno per le imprese che fanno robotica, tipo 100 milioni di euro, una cosa del genere. A livello degli istituti di ricerca si cerca di spingere molto per portare avanti diciamo la robotica, che diciamo rispetto alle scienze classiche è un po' una nuova disciplina, quindi l'ambiente è sicuramente molto positivo. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Serena Ivaldi, 32enne ricercatrice presso l'INRIA francese a Nancy. Una passione sbocciata fin da bambina, quella di Serena per la robotica. A un certo punto del suo percorso professionale capisce però che deve espatriare per fare ulteriori progressi di carriera. Il suo postdoc è all'estero, in Francia, poi la Germania, prima di tornare oltre Alpe. 0 opportunità invece in Italia, ma lei ne è convinta. Abbiamo bisogno di internazionalizzare la nostra ricerca e il nostro corpo ricercatori, uscendo dai vecchi e antiquati modelli di dipendenza studente-professore, se vogliamo sopravvivere. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. La scelta di fermarmi in Francia e non tornare in Italia non è stata per nulla facile, ricordi? Anche se a un certo punto te lo sei detta, beh, proviamo a tornare. Così hai mandato una email esplorativa dopo aver visto una posizione aperta. Allora, qual è stata la risposta? La risposta è stata un muro di gomma, perché la risposta è stata praticamente che il concorso era sui temi di ricerca che stava facendo un'altra persona, quindi il concorso era praticamente per quest'altra persona. Era disegnato ad hoc? Sì. Ora, va bene, nel senso, non è che io potevo anche aspettarmi che ci fossero ancora concorsi a personam, perché so che è così, però la cosa che più mi ha fatto male è che il tono della risposta mi ha proprio buttato giù di morale, mi ha scoraggiato. Capisco. Tantissimo. È chiaro, e chi non si sarebbe scoraggiato? Però più in generale, che tipo di offerte hai visto nel mondo della ricerca in Italia? Te lo chiedo in termini di chiarezza e anche diffusione. La situazione non era molto chiara. Ora, è stato negli ultimi anni che era nei momenti in cui si applicava la ex riforma Gelmini, quindi era molto confusa la situazione. In Francia era molto più chiara, perché... Ecco, infatti arriviamo alla Francia. Spiegaci bene quanto sono aperti e competitivi, soprattutto basati sul curriculum, i concorsi di ricerca in Francia. Il curriculum conta tantissimo, nel senso ci sono 2 tipi di concorsi. Chi vuole fare ricerca e insegnamento, quindi stare all'università, deve prendersi prima l'abilitazione e si può essere abilitati. Una volta che si è abilitati ci sono i concorsi nazionali per essere professore associato, ordinario, più o meno. Insomma, tutto molto aperto e trasparente, mi pare capire. Sì, poi vabbè, i concorsi hanno sempre nella commissione la parte esterna, parte interna, però molto più clean come cosa. Cioè il concorso che ho fatto io non conoscevo nessuno della commissione. E ti hanno preso, italiana, straniera, ma ti hanno preso. Beh, tra l'altro caso eccezionale, italiana, donna, non francese. Un mix che in Italia sarebbe devastante, probabilmente. Proprio... La tua vita professionale passa anche per la Germania. Ti chiedo, perché consigli a tutti di lavorare un periodo in Germania nella ricerca? In Germania funziona tutto, per la mia esperienza è stata che è tutto iper organizzato, cioè uno arriva anche da fuori, bisogna fare questo, questo, questo. questo, e io non parlo neanche tedesco. Poi lavorano molto, molto più rispetto alla Francia, molto più rispetto all'Italia. Forse c'è anche un po' più di competizione anche fra di loro che si sente, però diciamo in generale chi lavora, chi è ingegnere soprattutto, gode di una stima della popolazione assoluta. Arriviamo all'ultima puntata della tua storia, almeno per ora. Grazie a un concorso arrivi all'INRIA, uno dei centri di ricerca più prestigiosi di Francia, a Nancy. Di cosa ti occupi esattamente, perché ti definisci assolutamente thrilled, eccitata dall'inizio di questa avventura? Io ho fatto al concorso come chargé de recherche, che è una posizione da ricercatore puro, 100%, e riguarda il fatto che sono super contenta e eccitata di questa avventura perché lanciamo un nuovo laboratorio di robotica. Trovo molto triste quando vengo in Italia e mi sento accusata di aver abbandonato il paese o di essere fuggita per una mia convenienza, denunci. Allora ti chiedo, perché questo è un pensiero retrogrado? Perché siamo ancora così provinciali da guardare con sospetto chi ha scelto di formarsi all'estero cambiando aria? Non lo so, io all'inizio pensavo fosse un problema dei genovesi, perché io vengo da Genova, i genovesi sono un po' orsi, però poi parlando poi con altri italiani che sono insomma all'estero, che vengono da altre città, vedo che è un po' una cosa generalizzata, allora, secondo me è un problema di cultura, di educazione. Per te la nostra domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Beh, l'Italia, come la vedo, è sempre peggio da fuori, mi spiace quando mi collego con i giornali, non vedo tante cose positive, mi dà l'impressione come se si voglia vivere sempre su glorie passate, e che si guarda troppo poco al futuro, ai giovani, a quello che si potrebbe conquistare avanti. E un altro problema è che secondo me si investe troppo poco in ricerca. Ci raggiungerà in linea il professor Giorgio Metta, direttore dell'iCube Facility presso l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Professor Metta, partiamo subito con una riflessione. Cosa ci insegna la storia di Serena? Cosa non va nel mondo della ricerca italiano? C'è una certa frammentazione, che vuol dire che la ricerca ha delle isole, se vogliamo, felici, dei centri di eccellenza che sono assolutamente di qualità. Siamo in grado di preparare i ricercatori molto bene, come dimostra la storia di Serena, forse però non è ovunque così, per cui poi ci si scontra anche con questo problema, se vogliamo, del rientro o di mantenere i ricercatori. Però vorrei anche dire che non è ovunque così, esistono assolutamente delle... Uno siete voi, l'Istituto Italiano di Tecnologia, insomma, ha bisogno di poche presentazioni, basti pensare al robot umanoide iCube, di cui lei è il padre, vera e propria icona futuristica del Made in Italy. Siete considerati un polo di eccellenza. In breve, ci racconta di cosa si occupa l'Istituto Italiano di Tecnologia? L'Istituto si occupa sostanzialmente di 3-4 grossi temi che hanno a che vedere con i materiali, le nanotecnologie, con la neuroscienza, con un'estensione alla farmacologia, poi c'è la robotica. Quando guardiamo le esperienze di lavoro nel settore della ricerca all'estero, lei parla la stessa lingua di Serena, infatti ha lavorato all'MIT di Boston, ha impegnato con l'Università di Plymouth, solo per fare un esempio. Posto che un'esperienza all'estero è imprescindibile, lei, è vero, ce l'ha fatta a tornare, però mi sbaglio o siete una minoranza a realizzare questo sogno? Non so i numeri, non so dire se siamo una vera minoranza. Quello che credo è che al momento, per come è fatta la ricerca nel mondo, sia necessario non tanto curarci, lo dico tra virgolette, se tornano degli italiani, quanto se il bilancio complessivo dell'Italia è positivo, quindi potrebbero tornare anche degli stranieri. La ricerca ormai è talmente internazionalizzata che è del tutto possibile che un italiano vada a lavorare all'estero e poi ci rimanga, però bisognerebbe essere anche in grado di attirare degli stranieri. Noi in IT siamo riusciti a farlo questo, abbiamo un 30% dei nostri ricercatori che in effetti sono stranieri, bisognerebbe farlo di più anche nel resto del paese. Allora le allargo la domanda, lei parlava di isole di eccellenza, le chiedo come rendere sistemiche queste isole di eccellenza in Italia, e non parlo solo di finanziamenti alla ricerca ma anche di reclutamento, selezione, trasparenza nella selezione dei migliori ricercatori. Assolutamente sì, il meccanismo di selezione deve essere assolutamente trasparente e internazionale per quanto possibile, con comitati di valutazione che non abbiano degli interessi diretti all'istituzione per la quale si fa la selezione. Bisogna cercare il più possibile, appunto, di, come si dice in inglese, di essere fair. Se riusciamo a fare questo, io credo che si fa l'interesse delle istituzioni e si riesce poi a reclutare al meglio, per cui avremo anche gli stranieri che arrivano in Italia alla fine. Io ringrazio e saluto il professor Giorgio Metta, in bocca al lupo per il vostro lavoro. Domanda di rito per Serena Ivaldi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Prepararsi sul paese dove vuole andare, studiarsi bene la lingua prima, da un lato di non avere paura, nel senso che è vero, è difficile andare fuori, vivere in un altro paese, altre culture, altre cose, però è un'esperienza che secondo me soprattutto da giovani si può fare. Però l'altra cosa che dico, che vedo tantissimi italiani che cercano di trasferirsi pensando che uno arriva e trova lavoro così, beh, non è così, bisogna arrivare con un obiettivo preciso. Ritorna anche quest'anno l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 16 maggio, 10 settimane. Quest'anno raddoppiamo le opportunità, che riguarderanno un totale di 8 ascoltatori tra i 18 e i 40 anni. Per partecipare è necessario inviare da adesso fino alla mezzanotte di domani una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta. Il tema di questa settimana: indicateci una proposta in 140 caratteri per migliorare il progetto di ispirazione europea Garanzia Giovani, rendendolo un vero strumento di successo contro la disoccupazione giovanile e rimediando agli scarsi risultati fin qui ottenuti. Inviateci le vostre proposte in 140 caratteri con i dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e pubblicatele su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione, inviate le vostre proposte solo fino alla mezzanotte di domani e nell'oggetto non dimenticate di scrivere la parola chiave della settimana, che è Europa 1. Ripeto, Europa 1. I primi 4 classificati si aggiudicheranno altrettanti viaggi studio al Parlamento Europeo di Strasburgo, i classificati dal 5° all'8° posto 4 biglietti d'ingresso al Padiglione Europeo di Expo 2015 a Milano. Vi ricordo ancora la casella email concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi vi raccontiamo un nuovo esperimento di radio web nata per informare la vasta comunità di emigrati italiani in Gran Bretagna. Musica e informazioni utili per i giovani connazionali oltremanica. Andiamo a scoprirne di più con Filippo Ballini, direttore e fondatore di London One Radio. Mi sembrava carino riproporre una nuova radio verso i giovani, anche perché per sottolineare soprattutto tutta un'immigrazione enorme che sta avendo l'Inghilterra e soprattutto Londra, e quindi una radio che possa informare i giovani, per esempio sulle truffe, informare se ci sono possibilità di lavoro, quelli sane ovviamente. È una web radio questo, specifichiamolo. È una web radio al momento, le nuove tecnologie permettono di andare con un semplice link, essere ascoltati in tutto il mondo. Noi siamo diciamo in qualche modo un'integrazione a un'informazione già presente, però ecco, unita anche con la musica. Se capisco bene, il vostro obiettivo è quello di dare una prima guida a chi arriva oggi a Londra. Cioè, quanto è alto il pericolo di sbagliare strada in qualche modo? Tantissimo, tantissimo, perché le persone vengono a Londra avendo anche dei sogni ovviamente, e poi trovano una realtà molto complessa, molta competitività, molte agenzie sfruttano, ahimè, anche l'inesperienza, il primo passo che fanno i giovani, e quindi sbagliare strada è un attimo a Londra. Le statistiche aeree sul 2013 parlano di un più 81% di giovani italiani a Londra, è praticamente raddoppiata l'emigrazione, cioè siamo davanti a un'onda mai vista. È un fenomeno mai visto, che è anche difficile quantificarlo in numeri, perché per esempio il consolato italiano è il primo in Europa con 234.000 iscritti, ma pensiamo che ci sono per esempio quelli che vengono e non si iscrivono. È uno tsunami veramente enorme, un'emorragia che sta invadendo Londra, tutta anche l'Inghilterra, che tra le altre cose c'è un alto livello culturale di giovani che vengono a Londra, circa l'89% ha una laurea, quindi questo è un dato importante. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.londononeradio.com. Un motivo per restare o tornare. Importante novità per la Garanzia Giovani: alla fruizione del bonus occupazionale previsto dal programma, che varia da un minimo di 1.500 fino a un massimo di 6.000 euro, vengono ammessi i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che abbiano raggiunto la durata minima di un semestre. Inoltre, il bonus occupazionale viene reso cumulabile con gli altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.